Tempo di sport con Carlo Genta. Ipotesi fantasiose e scenari totalmente privi di fondamento. Così chiariamo subito e partiamo dalla totalmente priva di fantasia smentita, solita, abituale della Fininvest, al disegno dei futuri scenari del Milan che oggi la Gazzetta dello Sport traccia con grande enfasi. E allora ne vogliamo parlare con il califfo della nostra economia, per il quale sarà un po' difficile parlare di Milan, data la sua estrazione sportiva. Sebastiano Barisoni, buongiorno. Buongiorno a te Carlo e ai nostri ascoltatori. Sì, califfo dell'economia, che i tempi che corrono, meglio cambiare termine. Sì. Spiegami cosa succede. No, ti spiego perché ho difficoltà a parlare del Milan. Prima. Lo so, da veronese quale sei. Tifo Hellas Verona e festeggiamo l'ingresso in B, il ritorno in B. Detto ciò, restiamo seri e veniamo alle ipotesi presenti oggi sulla Gazzetta dello Sport, ma che circolano ormai da giorni. L'ipotesi in sostanza è questa: che il Milan, attualmente al 100% della famiglia Berlusconi e quindi una delle società assieme a Medusa per esempio non quotate in borsa, che il Milan possa aprirsi all'ingresso di capitali. Due le ipotesi sullo sfondo: le ipotesi che entrino dei soci privati con una quota intorno al 30%, di solito quella che avviene in questi casi. Si è fatto il nome di vari esponenti, in primo luogo Fly Emirates, che è già lo sponsor del Milan e quindi il fondo sovrano degli Emirati Arabi. Potrebbe essere un'ipotesi. C'è chi ha detto che però, visti i rapporti anche del Premier con Berlusconi, con il Premier Putin, potrebbe entrare Gazprom con una quota anche qui intorno al 30%. L'altra ipotesi invece è quella di una quotazione di una parte del Milan in borsa, come già avvenuto per altri titoli, devo dire non con una grande fortuna, no. Penso alla Lazio e alla Roma Calcio, però che il Milan possa essere collocato in borsa per un 30%. Senti, ma en passant, qual è la tua valutazione sulla quotazione dei club calcistici in borsa? Tra l'altro si fa una deroga alla regola secondo cui il bilancio deve essere a posto. È stata fatta una deroga nei casi passati, anche quelli che citavo. La borsa italiana prevedeva che tu non potessi avviare una quotazione se avevi bilanci in rosso. Nel caso di Roma e della Lazio così è stato fatto. Devo dire che quello che poi è successo in borsa non è stato edificante. Sono titoli che diventano molto poco sottili, ossia hanno poche compravendite, che si muovono in maniera molto repentina. Io dal punto di vista di principio non trovo niente di strano che un club calcistico fatto di migliaia, se non centinaia di migliaia di tifosi, veda un azionariato popolare in questi tifosi. Il problema è poi quanto lo quoti e chi tira le fila, perché nel caso di Roma e Lazio abbiamo visto che poi in realtà le decisioni societarie non erano da public company, c'era sempre il paron, per usare il vecchio termine, che decideva chi comprare. Totti come si svegliava la mattina. Ma non solo, insomma, chi comprare, chi vendere, sì, e che campagna acquisti fare, senza che vi fosse una, per usare un termine tipicamente finanziario, una governance adeguata, cioè un conto è la proprietà, un conto è il manager ha un consiglio di amministrazione, devono esserci anche i rappresentanti dei piccoli azionisti e in questo caso quindi del mondo dei tifosi che vogliono comprarsi le quote. Così non è mai avvenuto. Si è collocato in borsa un pezzo di questa società per tirare su dei soldi, ma sì, in realtà le decisioni poi le ha sempre tenute il proprietario del club. Cosa che vorrebbe fare anche il Milan. Mi spieghi perché a Hong Kong? Perché si legge che il Milan potrebbe, nel caso della via della quotazione in borsa, seguire la strada orientale. Perché a Hong Kong si è già quotata Prada, sì, che poco c'entra con il Milan. Si dovrebbe quotare il Manchester United. È una borsa che ha vincoli meno forti rispetto a quelle europee. La Cina prevede maggiori deroghe caso per caso, per cui a differenza nostra in cui c'è un regolamento molto più stretto, in Cina è possibile quotarsi anche derogando da alcune norme, loro sono molto più flessibili ed è la classica piazza per gli investimenti dei fondi internazionali, per cui il Milan è un marchio molto conosciuto come Manchester United, come la Juventus, come l'Inter, come il Barcellona. E sono quei nomi molto forse più conosciuti rispetto ad altri marchi italiani all'estero di quanto non si possa immaginare. Senti, questa storia dello scorporo invece, questa ipotesi dello scorporo del Milan dalla Fininvest che... ragionando sempre di ipotesi e non ho elementi per dirlo. Io noto solo due cose. A vantaggio di un'eventuale quotazione in borsa di una parte del Milan o di un ingresso di un privato, ci sarebbero due elementi, due fattori. Il primo, anzi tre. Il primo è che obiettivamente nel gruppo Fininvest, nella galassia Fininvest come si dice in gergo, mentre Mondadori e Mediaset sono quotate, Mediolanum di cui Fininvest ha una partecipazione è quotata, Medusa, quindi cinematografia, e Milan non sono quotate, e quindi lì si potrebbe trovare o si potrebbero trovare risorse finanziarie, ripeto, o facendo entrare un socio privato o collocando il titolo in, sì, in borsa. Il secondo aspetto riguarda la cronaca di cui ci occupiamo a Focus Economia tutti i giorni, mi riferisco alla sentenza sul lodo Mondadori, ci sono 560 milioni, per carità, non è un dramma per l'universo Fininvest e Mediaset, però anche quello sarebbe un modo per reperire risorse, vista la multa che la Fininvest deve pagare. Terzo aspetto è quello invece dell'asse ereditario di Silvio Berlusconi, e cioè noi sappiamo che da un lato Marina Berlusconi è ampiamente operativa con la Fininvest e la Mondadori. Pier Silvio Berlusconi guida Mediaset, i figli di secondo letto, a partire da Barbara, che ha un ruolo nel Milan ma ancora marginale, devono ancora essere collocati. Lì c'è chi ipotizza che l'operazione Milan, oltre che portare soldi in cassa al gruppo Fininvest, possa essere anche il viatico per dare un ruolo più visibile, sì, più chiaro, più netto, più alla pari con gli altri fratelli a Barbara Berlusconi, che in questo momento è quella più impegnata, più visibile. Beh, in questo momento è in vacanza a Villa Certosa con Pato, per la verità. Visibile nei confronti del Milan, ogni tanto anch'io leggo la cronaca, diciamo, non economica, non finanziaria, a questo punto neanche sportiva. Per cui, no, ma mi riferivo a un ruolo proprio più manageriale, sì, e funzionale dentro la Fininvest stessa. Senti, un'ultima cosa, Sebastiano, onestamente, lascia fuori dalla porta al tifoso che è in te. Quanto peseranno questi 560 sul futuro del Milan? È una bella domanda. A giudicare dalla reazione del titolo Mediaset in borsa, la borsa un po' l'aveva già incamerato, un po' l'ha ignorato. Devo dire che se andiamo a calcolare, a valutare i soldi complessivi del gruppo Fininvest, quindi anche gli andamenti in borsa di Mediaset si è mossa molto di più sulle previsioni di raccolta pubblicitaria, più bassa delle attese, in linea con le attese, ha perso in queste sedute parecchio, più sulla raccolta e sul mercato televisivo, voglio dire, fa più Sky in questo momento la concorrenza della 7 sul titolo Mediaset e conseguentemente anche poi su quella che è la disponibilità liquida della Fininvest, che non la sentenza in senso stretto precedentemente era 760 milioni, sono 200 milioni in meno, per cui su questo non penso. Dopodiché è vero che c'è un problema di ristrutturazione dell'intero gruppo ed è vero che comunque la TV generalista soffre, mentre dal digitale non stanno arrivando i ricavi attesi. Ti ringrazio, ci troviamo dopo con Focus Economia. Forza Hellas. Già. Allora, tocca a voi. 800 24 00 24. Franco Piantanida in redazione, Mauro De Angeli in regia. Ma quale vi piace di più di queste tre piste? Magari quell'araba? Milan arabo. Come lo vedete un Milan arabo? Preferite invece magari, invece di Fly Emirates, l'amico Putin che entra con Gazprom, allora un Milan russo? Mi segnalano che giustamente che un egiziano al Sharawi c'è già. Oppure, l'ha spiegato Sebastiano Barisoni, perché Hong Kong, dove andrà anche il Manchester United, dove c'è già Prada, volete per caso un Milan orientale? Intanto dalla Fininvest, ripeto, dicono che queste sono solo fantasie, sono ipotesi fantasiose, scenari totalmente privi di fondamento. Questo lo scopriremo. Io credo a stretto giro di posta, perché insomma i tempi stringono, so che c'è una fideiussione, segnala Giacomo, basta con questi 560 milioni, si tratta di capire per gli sportivi, io credo, per i tifosi milanisti, quanto questi 560 milioni centreranno nel futuro del Milan. Io credo che invece saranno ipotesi fantasiose, scenari privi di fondamento, ma qualcosa di nuovo, io immagino, ci sarà. Intanto 800240024, vi ripeto, vi do anche le notizie più recenti, le notizie fresche, quelle di giornata, a cominciare dalla Coppa America, di cui tra poco parleremo, con l'Uruguay che è andato in finale, battendo 2-0 il Perù con una doppietta di Suarez, gol realizzati nel secondo tempo. E primo un ascoltatore via SMS chiedeva in maniera del tutto legittima: ma perché Sanchez, che tra l'altro oggi andrà al Barcellona, perché Pozzo era, dice che c'è l'accordo su tutto, e dunque altra notizia in divenire, ma che probabilmente arriverà entro fine giornata, quella dell'ufficializzazione del passaggio del Niño Maravilla al Barcellona in Blaugrana, come voleva peraltro, come ha chiesto a gran voce lo stesso Guardiola. Bene, come mai si parla di Sanchez, di Agüero, di mille altri pseudofenomeni, e questo Luis Suarez non se lo fila nessuno? In realtà è del Liverpool, in realtà secondo me è un grandissimo giocatore di calcio. Poi altre notizie di oggi che vi do subito, perché è cronaca delle prime ore di questa mattina, dato il fuso orario. Mondiali di nuoto, non benissimo la 10 km di fondo per i nostri colori, vinta da Giannotis greco. Valerio Cleri è arrivato soltanto undicesimo, lui che deteneva questo titolo. E poi c'è un'altra notizia invece positiva per noi, seconda esibizione positiva favorevole con vittoria del Settebello della pallanuoto, che ha battuto 8-5 gli Stati Uniti. Ma tornerei al calcio e alla Coppa America e al Sud America, perché c'è un'altra cosa curiosa che mi piacerebbe chiarire, relativa ai nuovi scenari sul Milan. Emiliano Guanella dall'Argentina, buongiorno Emiliano. Buongiorno Carlo. Curioso il fatto, mi ha colpito il fatto che questa notizia sia arrivata sulle pagine della Gazzetta proprio da Buenos Aires, infatti ne ha scritto a pagina 2 della Gazzetta Luca Curino. Come mai da Buenos Aires? Hai notizie di questi rumors relativi al Milan? Perché arrivano da Buenos Aires? Ne sai qualcosa? In realtà Carlo, mi cosi cosa mi sono preparato, perché 9 di mattina mi sono lì, sì. Preparato su questa notizia specifica. Noi veniamo dalla maratona notturna di La Plata, la maratona di questa bellissima partita e questa meravigliosa vittoria dell'Uruguay con Luis Suarez. E sentiamo, aspetta un attimo, facciamo sentire. Guerrero, ora il disparo, viene da Quero Suarez, il contrarremate e il gol di Uruguay! Gol di Uruguay! Corto Farlán le devuelve, esta es buena, Luis Suárez va para el segundo, Luis tiene el segundo, lo tiene que firmar, ¡gol! ¡Gol de Uruguay! Luis Suárez con la avenida abierta y poner el 2-0. E dall'altra parte del fiume si scatena la festa, eh? Beh sì, festa meritatissima, l'Uruguay non è una parvenu, non è un caso, non è una Coppa America strana, quei colleghi argentini giocano, ahimè per loro, da tanto tempo con questo... Giocano a ribasso. Esattamente, giocano a ribasso, nel senso che una volta che l'Argentina è eliminata, allora è un torneo strano, vince chi gioca male, sono fasi... Insomma, la realtà, la cruda realtà è che da 19 anni l'Argentina non vince nulla, e la realtà è che l'Uruguay non solo va bene con la nazionale di Forlán, di Suarez, Lugano e compagnia cantante, quarta nel mondiale, e perlomeno seconda in Sud America, quindi le gerarchie del calcio sono quelle. Ma il calcio uruguaiano sta vivendo un momento di assoluto splendore. Sì. La nazionale Under 20 si è qualificata dopo 60 anni per i Giochi Olimpici di Londra, arrivando secondo nel sudamericano subito dietro il Brasile. La nazionale Under 17 è arrivata in finale nel mondiale nel 17 che si è appena concluso in Messico. Il Peñarol, la grande squadra storica uruguaiana, è arrivata alla finale della Libertadores, sì, persa con il Santos, una finale che sapeva di storia del calcio, certo, una finale Santos-Peñarol che rimandava agli anni 60. Il calcio uruguaiano appunto sta crescendo, perché a reggere le fila della federazione, una federazione povera, meno glamurosa, meno importante, meno pesante anche geopoliticamente, se così lo possiamo dire, rispetto a Brasile e Argentina, da cinque anni c'è un grande professionista, l'abbiamo detto più volte, una persona con un piano di lavoro e con un progetto di lavoro che ha coordinato non solo la nazionale maggiore ma tutte le nazionali, quindi anche i settori giovanili, che si chiama maestro Oscar Washington Tavares. Molto di questo successo che non è un omonimo rispetto a quello che abbiamo cacciato, non dico a calci ma con qualche fischio, dal nostro campionato. Non è un omonimo, è lui. Io sto iniziando a pensare che forse è il campionato italiano che porta sfortuna, perché come si ricorda di Carlos Bianchi e della sua assolutamente trascurabile parentesi, sì, romana. Carlos Bianchi è allenatore che ha vinto 4 Coppe Libertadores e 4-5, ho perso il calcolo, scudetti con Vélez e Milan in Argentina. Carlos Bianchi che è l'allenatore che tutti gli argentini vorrebbero da tempo nella nazionale argentina, ma che non ci sarà, non andrà mai nella nazionale argentina fino a quando a capo della federazione ci sarà quel personaggio oscuro e pericolosissimo di Julio Grondona. Ho letto anche oggi che Maradona insomma ha detto la sua su Batista, la sua al vetriolo. Beh sì, insomma, Maradona credo che rida un po' sotto i baffi, ecco, sì. Perché Batista fu un po' infamello con Maradona. Batista, che era allenatore appunto delle squadre giovanili dell'Under 20, e quindi tutto il periodo in cui Maradona è stato, quei 12 mesi in cui Maradona è stato allenatore della nazionale argentina, comunque l'ha appoggiato, è stato sempre molto vicino. E poi quando gli ha segato la panchina, appunto, il divorzio, è stato lì pronto a prenderne il posto. Batista rimane nella nazionale argentina, io credo semplicemente perché non hanno né tempo né voglia né nomi per, sì, chiamare un'altra persona. Certo. Però se le eliminatorie inizieranno ad andare male, ripeto, con questa nuova geografia del calcio sudamericano in cui il Perù e il Venezuela stanno dimostrando buone squadre, in cui l'Uruguay e il Paraguay ormai sono confermate delle potenze, in cui il Cile di Alexis Sanchez e non solo, comunque una squadra molto competitiva, l'Argentina sembra un assurdo, ma dovrà faticarne un poco per qualificarsi ai mondiali. Certo, certo, non glieli regalerà nessuno i mondiali all'Argentina, che come il Brasile è, visto che parlavamo di borsa, in netto ribasso ormai da molti anni. Emiliano, ti ringrazio, ci sentiamo nei prossimi giorni naturalmente per seguire il cammino di questo Uruguay, che a questo punto è nettamente favorito per la vittoria della Coppa America, e direi che si può anche fare il tifo come fa Lorida Milano via SMS per il vecchio Oscar Washington. Grazie ad Emiliano Guanella. Adesso passo agli ascoltatori. 800 24 00 24 è il numero verde. Due ascoltatori da Verona, non mi sorprende, la città di Barisoni, magari anche loro tifosi dell'Hellas come Sebastiano Barisoni. Marco, buongiorno. Buongiorno, non sono tifoso dell'Hellas, anzi, nel senso, sono contento che siano tornati, sì, in Serie B, e non posso però prescindere dal discorso Hellas Verona, dalla tifoseria che veramente mi lascia di stucco ogni volta, anche l'ultima volta con i festeggiamenti che, sì, hanno fatto per la promozione, che mi hanno lasciato veramente di stucco. Il mio intervento era sempre poi preceduto dal vostro esperto lì da Buenos Aires, dal fenomeno Uruguay, sì, come diceva il vostro, sì, come il vostro diceva collega. Ma non è, guardi, non è né un miracolo né una sorpresa, secondo me, perché l'Uruguay è uscito vincitore dall'ultimo mondiale, si ricorderà bene, ci ricordiamo tutti molto bene, perché è passato un annetto del mondiale fatto dall'Uruguay. Dunque, se fossimo stati un po' più attenti invece di essere come al solito banali, avremmo pronosticato dall'inizio l'Uruguay tra le grandi candidate alla vittoria di questa Coppa America, perché Argentina e Brasile, soprattutto l'Argentina, non può più essere considerata una squadra egemone del continente, a mio parere. No, ma l'Argentina, io lo dico col cuore a pezzi, perché io sì, sono di Verona, ma sono nato in Argentina. Io tifo Argentina, Argentina dichiaratamente, veda lei. Io tifo Argentina, purtroppo è una maledizione, perché è una maledizione. Ogni volta che io guardo una competizione calcistica e c'è la nazionale, io devo spegnere la televisione, perché è una cosa, sono inguardabile. Con l'Uruguay erano inguardabili. Ha ragione. Il panico in difesa ogni volta che Forlan faceva un cross in area di rigore. non è possibile, non è possibile che una nazionale di questo genere, con i nomi che hanno, Mascherano, Cambiasso, Pérez, e se il problema fosse proprio quello, dei nomi concentrati, non c'è un ricambio generazionale. Cioè il problema è i brasiliani giocano fin da quando hanno 2 anni, hanno 3.000 miliardi di campioni, sono usciti dalla Coppa America, vabbè, sono usciti un po' così, ma si rifaranno sicuramente in futuro, rimangono sempre i numero uno secondo me, e lo dico chiaramente con parecchio sentimento. Vediamo, perché anche i brasiliani i loro problemi ce li hanno. Io devo ancora convincermi del fatto che Neymar, Pato, Ganso siano stelle mondiali di prima grandezza, devo ancora convincermi di questo. Lo sono per il momento soltanto in potenza. Anche in Brasile un ricambio generazionale è necessario, c'è stato, però bisogna vedere se questi sono davvero dei fenomeni come si dice, perché al momento non è così. Quanto all'Argentina, io credo, caro Marco, e insomma piangiamo tristemente sulla stessa barca, per quanto le ho detto, l'Argentina è prigioniera, io credo, della ricerca, ma questo ormai da 20 anni, del nuovo Maradona. C'è stato un ricambio generazionale, perché togliendo Messi, Agüero, Higuaín, lo stesso Di Maria, sono tutti giocatori molto giovani, però sono tutti giocatori nella metà offensiva del campo, e insomma mi sembra che tutte le volte ci sia da tirare le carte o i dadi e scegliere chi deve giocare insieme a Messi. Messi stesso non ha, a mio parere, la personalità al momento, non so però neanche se ce l'avrà mai, per prendersi questa squadra sulle spalle con leadership e condurla oltre l'ostacolo. Io credo che l'Argentina sia una squadra, una cozzaglia di grandi attaccanti. Matteo, Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Io chiamavo in merito alla domanda sul Milan arabo, all'orientale o russa. Io premetto, sono tifoso milanista, sofferente nei confronti della presidenza attuale. Il motivo della mia telefonata però è capire, nel momento in cui una realtà straniera entra all'interno del mondo del calcio, che sappiamo che in Italia è un volano economico sconvolgente, ed entra in una città come Milano, che si appresta nel 2015 ad avere l'Expo, non può essere, facendo un po' di dietrologia, questo il vero motivo. E quindi noi tifosi rischiamo di vederci una presidenza, seppur straniera, che ci usi per arrivare da un'altra parte. Beh, però attenzione perché comunque l'ingresso sarebbe in posizione minoritaria, l'ingresso di capitale straniero. Forse la dietrologia è un po' eccessiva in questo caso. Milan come cavallo di Troia per arrivare al cuore di Milano, al cuore dell'Expo, mi sembra davvero tanta roba. Sarebbe comunque un ingresso minoritario che porterebbe dei quattrini di cui il gruppo intero in questo momento ha molto bisogno. Dunque, a quanto pare la Juventus ha raggiunto l'accordo con Vidal, giocatore centrocampista cileno del Bayer Leverkusen, 2,5 milioni, 3 a stagione per il giocatore, per 5 anni da raggiungere l'accordo con il Bayer Leverkusen, ma grande ottimismo della dirigenza juventina. Queste sono le notizie che arrivano così e ve le giro per quelle che sono. 800 24 00 24 invece il nostro numero verde. Tra poco vorrei parlare di giallo e di maglie che mi sembrano un po' dei pigiamoni, poi vorrò parlare anche di surf, come facciamo ogni mercoledì e come faremo anche il prossimo mercoledì, sarà l'ultimo di questo spicchio di estate di A Tempo di Sport. Vi ricordo che al termine della prossima settimana ci saluteremo per un paio di settimane, fino al 20 agosto, e poi cominceremo a pieno regime con la programmazione sportiva 7 giorni su 7, avvicinandoci al campionato. Intanto torno agli ascoltatori, Gianni dalla provincia di Agrigento e poi Adriana da Crema. Gianni, buongiorno. Buongiorno. Dica. Prima di tutto le dico forza Italia, non forza Argentina, mi dispiace, ma noi siamo italiani, dobbiamo tifare Italia. Sì, ma per carità. Io penso che ognuno possa tifare quello che vuole nel calcio. No, essendo italiani mi sembra un pochettino. Lo stesso napoletano hanno trovato Argentina contro l'Italia, non è una cosa tanto bella da italiani. No, va bene. Ognuno la pensa come vuole. Esatto. Massima libertà. Poi ho detto di quant'è che fanno l'antitoping a tappeto. Giustamente non si possono più giocare in Argentina e poter vincere quattro campione. Ma chi l'ha detto? E nemmeno segnare più gol di mano. Ma chi l'ha detto? Mi sbaglio? Ma cosa c'entra questo? Cosa c'entra questo con l'antidoping a tappeto e con le vittorie? Mi perdoni. Maradona è un grandissimo. Anche Dogando, se Platini poteva diventare peggio volte per fortuna Maradona, secondo me. Ci riusciamo, no, ci riusciamo. Ma no, ma Gianni, ma mi perdoni, ma allora non mi va, guardi, lasciamo stare perché tanto non ne vale la pena. Insomma, se Maradona, se uno si droga, gioca meglio? Si droga e non si doba, ma lasciamo stare. Mi sembrano discorsi abbastanza infantili, puerili, stupidi, sciocchi. Non lo so, scegliete voi l'aggettivo. A me sembra una cagata questa. Cioè, se Maradona si prendeva la cocaina, giocava meglio. Questa mi sembra la più grossa sciocchezza, una delle più grosse sciocchezze che si possano dire. Poi, non lo so, sarà un problema mio. Adriana, da Crema... Sarà un problema mio credere questo, non tutto il resto. Sarà un problema mio credere questo, sarà un problema mio credere che se aveva un problema personale, questo problema ha influito negativamente sul campo, secondo me, per quanto riguarda Maradona, non certo positivamente. Ma Adriana, buongiorno. Ciao. Ciao. Io sono brasiliana, per caso anche italiana, già da tanti anni che abito qua. È da anni che io sento questa storia del ricambio generazionale, che le squadre devono, le nazionali devono cambiare, e io non capisco, anche se prendiamo un'azienda, anche se c'è un laureato molto bravo, non lo mettono mica a dirigere l'azienda, e io non capisco perché, quando ci sono dei giocatori che ancora... giocano bene, hanno tanta esperienza, hanno tanti campionati in Europa, in Champions League, quindi sanno reggere la tensione, proprio lo stress di una Coppa America, di un mondiale, cioè, devono puntare su dei ragazzi che, pur bravissimi che siano, non hanno l'esperienza per affrontare questi... Sì, quindi secondo te nazionale brasiliana sbagliata, cioè tu avresti puntato più su giocatori di maggiore esperienza, però vedi, anche di quelli non ne sono rimasti tantissimi, no Adriana? Sì, però io penso che un Kaká nello spogliatoio avrebbe aiutato la nazionale, piuttosto di puntare solo sulla nuova generazione, perché io penso che questi giocatori che sono promesse diventeranno grandi campioni con l'esperienza, con tanti giochi di Champions League, con tante Copas Libertadores, e non provare a metterli, perché ci sono stati mille esempi in passato di giocatori che a livelli anche nazionali, nuove promesse, quando vanno a sentire il peso della maglia, di quella maglia gialla, non reggono, come se visto. Ma il Brasile, tu sai che sta preparando il mondiale di casa, quindi magari questa Coppa America è stato uno scotto pagato a una programmazione che fatalmente porta al mondiale di casa fra 3 anni. Per allora questi giocatori dovranno essere pronti. È chiaro che tu hai ragione pienamente, perché non né Neymar né Ganso, ma forse neanche lo stesso Pato, hanno ancora sufficiente conoscenza con lo stress del grande calcio. Beh, Pato un po' di più rispetto agli altri due che hanno visto solo Sud America e Coppa Libertadores, questo è senz'altro vero. Quanto a Kakà, sappiamo bene come sia reduce da 2 stagioni che mi fanno temere che possa essere, ahimè, vicino al capolinea. Non lo so, io spero davvero, essendo un grande giocatore, un giocatore che mi piace da impazzire, è un ragazzo che mi piace moltissimo come persona. Ecco, io spero che la prossima possa essere davvero la stagione di Kakà. Non so se Mourinho la penserà alla stessa maniera. C'è chi mi scrive: ma lei è favorevole al doping? Pensate a che punto si può arrivare usando gli sms. 349-238-6666, quasi quasi meglio non usarli. Dunque, adesso però voglio parlarvi di un'altra cosa, perché io sono rimasto basito ieri, mi ha molto divertito, insomma, il pigiamone giallo con il quale il Napoli si avvicinerà all'Europa, questa maglietta gialla, non la prima naturalmente, poi si dice... C'era anche ai tempi di Maradona, però io li vedo e a me francamente sembra un pigiama. E allora, dato che io di moda me ne intendo fino a un certo punto, vorrei coinvolgere su questi temi. Noi abbiamo uno stilista e un creativo di fiducia, come i nostri affezionati ascoltatori sanno, che è Paolo Atti. barbone supremo di barboni di lusso. Ciao Paolo. Ciao Carlo, che piacere essere di nuovo lì con voi. Reciproco. Erano anni, no, magari anni no, era qualche mese magari. Ma questa divisa del Napoli dal punto di vista estetico a te piace o sembra anche a te un pigiamone? Beh Carlo, ti dico, De Laurentiis è molto avanti, ha visto che il giallo comunque è il colore del prossimo inverno. Sì. Probabilmente tanti amici fan che abbiamo a Napoli avranno già visto le nostre nuove polo eccetera eccetera con il colore giallo che la fa quasi da padrone. Sì, sì. E quindi direi che come colore ha azzeccato, un po' scoloritino, un giallino. È un giallino un po' troppo tenue secondo te? Un giallino un pochino così, un pochino rilassante, ma dopo poi con l'azzurrino della tuta andiamo. Quella tuta lì, come, perché ho visto Mazzarri con il tutone del Napoli, anche quella a me non piace poi tantissimo. Sì, diciamo che l'azzurro è d'obbligo a Napoli, però il suo colore sociale non ci piove. Il colore originale mi piaceva moltissimo, siamo tutti affezionati a Napoli, sì. Però questo azzurrino qua forse ispira più relax, perché la creatività lì non manca, la fantasia idem, ci vuole un po' di relax per arrivare ai risultati. E sì, l'azzurrino potrebbe trasmetterlo. La maglietta gialla, non so se lo sai, ma nell'antica Grecia il giallo era il colore dei pazzi, che dovevano vestirsi di giallo per essere riconoscibili. La maglietta del Napoli tu come l'avresti fatta? Ma guarda, io sono tradizionalista, la maglietta del Napoli avrei fatta azzurra con la scritta Buitoni, anche se non si potrebbe dire. Era blu, la storica. Però io dico che questo azzardo e questo colpo di giallo non può che portare a grandi successi, grandi risultati questa squadra che si alimenta. Insomma, colore dell'anno. Ha visto come al solito giusto quell'idolo assoluto di De Laurentiis, è il colore dell'inverno. Sì, il colore dell'inverno, giallo spacca quest'inverno. Ah. Lo dico io. Allora io ci credo, se me lo dici tu io ci credo, anche se questa divisa giallina a me piace poco, l'idea di vedere il Napoli in Champions League con il pigiamone giallo a me insomma mette un po' di apprensione, però se tu mi dici che il giallo quest'inverno spacca, allora viva il giallo, viva il Napoli, viva De Laurentiis tutta la vita, io ti seguo. Lo immaginiamo già nelle partite nebbiose, no? Sì. Di novembre, di ottobre, novembre, questo giallino. Il prossimo è l'arancione, colori catarinfrangenti, insomma. Esatto. Dobbiamo cambiare colore del pallone. Che colore lo facciamo al pallone? A questo punto a volte si sono visti gialli, bisogna eliminarli, lo facciamo nero così siamo tranquilli e lo vediamo tutti. Sì, nero coi fregi viola. Esatto. Una roba trash. Paolo, grazie. Un abbraccio. Ciao, grazie a te, a presto. Grazie a Paolo Atti, barbone supremo di barboni di lusso. Vi piace la maglia gialla del Napoli? Adesso verrò sommerso dagli ascoltatori nostalgici che dicono: ah, quella maglia mi ricorda con la scritta Buitoni che prima Paolo Atti citava, mi ricorda tempi lontani. Eviterei di tornare nell'ambito della diatriba, droga, doping, Maradona, tutte queste sciocchezze. Carlo da Salerno, buongiorno. Buongiorno, mi dispiace, ma io volevo fare un intervento proprio su, sì, Maradona e la droga. Faccia. No, una cosa che non riesco a capire dello sportivo medio italiano, tutto questo odio verso Maradona, una cosa che non sono mai, anche se io sono tifoso di un'altra squadra, non del Napoli, quindi non è che mi interessa più di tanto, ma un artista del pallone così. Sì, lo, sì, stiamo trattando male continuamente, e sento dire addirittura poco fa cocaina, che, sì, la cocaina l'avrebbe fatto giocare bene, cose. Ma si può? È una cosa che non mi spiego, è una cosa che non mi spiego in generale dello sportivo italiano, cioè tra virgolette, cioè questo modo di vivere il calcio, che poi è una cosa che si vede solo nel calcio, poi alla fine negli altri sport siamo anche più sportivi, sì, però nel calcio vedere questa malignità, perché il calcio, calcio non è uno sport, è qualcosa di vicino a una religione per molti, è qualcosa che è estremamente trasversale, che a tutti interessa, è qualcosa che colpisce la pancia. Gli altri sport magari sono più cerebrali, agli altri sport guardiamo soprattutto spesso in chiave azzurra, insomma ci sono delle profonde differenze, poi per il resto insomma io mi allineo al suo pensiero, non potrò mai capire né potrò mai accettare, dico la verità personalmente, questo astio nei confronti di un genio del calcio che non era certo, probabilmente non un, anzi certamente non era un modello di comportamento, forse non era un una persona per bene, ma non so, non voglio entrare in questi discorsi. Quello che faceva Maradona fuori dal campo erano fatti suoi, così come quello che fa ciascuno di noi fuori dal campo sono fatti suoi, però dire che il suo problema migliorava le sue prestazioni sportive mi sembra la sciocchezza più colossale che si possa sparare, non solo per radio. Davide, provincia di Caserta, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Volevo fare solo un appunto per quanto riguarda la maglia del Napoli, la maglia gialla di cui parlava lei qualche minuto fa. Vabbè, non discuto i gusti personali, perché a me per esempio mi piace molto, insomma, la maglia gialla, però volevo semplicemente farle sapere che è la seconda divisa, sì. Comunque la maglia per la Champions non è stata ancora presentata, quindi Napoli non andrà in giro per l'Europa. È la seconda o la terza? Perché dicono è la seconda, perché non è stata presentata né la terza maglia, tantomeno è stata presentata quella per la Champions. Ma lei ci andrebbe in Europa con la maglia gialla? Lei piace, ha detto. No, ma io scherzo. Beh, certo, ma i gusti non si discutono. I gusti non si discutono, mi sembra un giallo un po' tenue, insomma, a me la divisa gialla in generale piace pochino. Poi, insomma, sono questioni stilistiche anche divertenti da dibattere, anzi mi piacerebbe da qui alla fine della settimana prossima fare, magari con qualche altra maglia sul tappeto, fare una intera puntata dedicata alle magliette nuove del calcio italiano. Sono curioso di vedere. Non mi piace invece, non so se è ancora in linea l'ascoltatore di Caserta, c'è? Sì, ci sono. La tuta come la mettiamo? Ripeto, sono sempre gusti personali, a me piace. Ovviamente sono un tifoso del Napoli, per cui il mio è certamente un ragionamento di parte. Va bene, ragionamento di parte, ma che ci sta tutto. A me non piacciono né la maglia gialla né la tuta, ma ripeto, sono questioni opinabilissime di puro gusto. Quella che sentite qui abbozzata sarà la colonna sonora, non so se è proprio questo pezzo, certamente l'autore di questo pezzo, la musica dell'autore di questo pezzo, sarà la colonna sonora dei mondiali di surf a novembre a Levanto. Chi la canta è un surfista, un amico da cui attingiamo per questa lezione di surf, titolare della cattedra di oggi, Andrea Marconi. Ciao Andrea. Ciao. Complimenti per la musica, davvero bellissima, davvero molto surfistica. A noi il costume ci va bene di qualsiasi colore. Purché si possa usare, non mi ricollego a discorsi. Il tuo preferito di che colore è? Ma è uguale, sono molto colorati i costumi da surf. Ma c'è una scaramanzia, per esempio il viola si può usare, c'è una scaramanzia per i surfisti? Ma no, non credo. No, non so, quando fa le onde si pensa andare in mare con la prima cosa che capita, sì. Alla fine. Sì. Andrea, noi stiamo provando ad imparare ad andare sul surf per radio, è un'impresa bizzarra, grande se vogliamo, forse è impossibile, non lo so, io ci sto provando, ancora non ci riesco. Siamo sulla tavola in posizione, si tratta di prendere l'onda e alzarsi in piedi. Mi hanno spiegato, alzo la testa, tiro su il busto, provo ad alzarmi ma cado, perché? Per tante cose. Intanto si cercherà di applicare i movimenti fatti sulla sabbia prima e comunque ci sono tanti fattori che possono portare alla caduta. Ci vuole molta attenzione e soprattutto bisogna cercare di ricordarsi tutti i movimenti, ma allo stesso tempo essere, diciamo, con la testa liberi e leggeri e rilassati in quello che si sta facendo. Sì. E riuscire a mettere insieme queste cose che fa sì che poi, insomma, si riesca a stare in piedi e provare quella sensazione che porta, insomma, a stare in piedi, soprattutto per chi lo fa per la prima volta. Quindi un bel respiro, libero la testa e sto morbido, insomma. Sì, esatto. Poi si cerca, insomma, di stare ben piegati, cercando di mantenere il baricentro più basso, così è più facile, insomma, controllare la posizione e anche la tavola. Come si cade in mare senza rischiare di prendere la tavola in faccia o di... Ma intanto me lo chiedo, perché a volte mi ritorna in testa così all'improvviso. No, scherzo. Intanto bisogna guardare se davanti, insomma, quando uno parte deve cercare di guardare davanti se tutto il campo è libero, di modo che se si cade si può lanciare la tavola in avanti o comunque cercare di lasciarla laterale, tanto poi insomma con il laccetto un po' avanti va e comunque mettersi anche all'inizio, insomma, cercare di ripararsi un attimo la testa, quello conviene sempre, ecco. Sì. E comunque quando si cade bisogna cercare di comunque anche lì di restare rilassati, ecco, perché se si sta sotto l'acqua per un po' di tempo magari è meglio stare tranquilli, aspettare di tornare su e aspettare che l'onda passi. Un'ultima cosa, sì. Andrea, poi l'approfondiremo anche mercoledì prossimo perché mi sembra un argomento grosso. Il controllo della tavola, come controllare la tavola senza che la tavola controlli me? Come si guida? Si guida col peso, spostando il baricentro, tenendo il piede. Ora in questo caso nel long, insomma, nelle fasi avanzate, ecco, si fa anche qualche bel passo sulla tavola, cercando di arrivare in punta. Comunque la prima mossa da fare è usare il piede che resta dietro, come un po' come timone, sì. E cercando comunque di stare con il peso centrale o più verso l'avanti, di modo che si ha un ottimo controllo della tavola e si manda soprattutto dove vogliamo, dove stiamo già guardando con la testa. Io giuro che ci provo fino a che non ci riesco. Senti Andrea, prima di salutarti di nuovo, volevo girarti un SMS invece di una ascoltatrice, si chiama Carmen. Sì. E scrive, parlando di surf, aveva detto, riferendosi a me, che mi chiedo, è uno sport tipicamente maschile da cui le donne sono escluse o ci sono gruppi ufficiali di surfiste? Per citare una frase di una donna surfista nel uno stralcio di Point Break di Catherine Bigelow, la donna insegnante di Keanu Reeves diceva che il surf è un eccesso di testosterone. Questo lo scrive Carmen, che si definisce un'apprendista surfista isolata. No, tra l'altro si è svolto da poco in Francia, diciamo, l'evento gemello per quanto riguarda le donne di quello di Levanto, esatto. Il mondiale femminile si è tenuto a Biarritz, giusto? Esatto, quindi io se vedo delle donne, se guardo dei video e vedo delle donne vorrei andare come loro, sinceramente, perché sono arrivate a un livello veramente alto e quindi è uno sport per chiunque ama il mare e per chiunque, diciamo, lo prova. Una volta che uno si alza e dopo è prigioniero. Sì. Poi è prigioniero. Cerca sempre, torna su più velocemente verso la line up per riprovare. Grazie Andrea, un abbraccio. Ok, un ringraziamento alla 51 che si sta dando veramente tanto da fare. Saluto ragazzi, anzi li raggiungo perché sono qua in spiaggia. Sei lì in spiaggia e quindi sto aspettando di andare in acqua. Aspettavi giusto la nostra telefonata, ti abbiamo fatto perdere un po' di tempo e un po' di onda, perdonaci. No, vado con ragazzi. Un abbraccio Andrea. Grazie mille. Ciao. Grazie davvero ad Andrea Marconi, con cui abbiamo fatto anche la lezione di surf di oggi. Mi raccomando, provate e poi venitemi a raccontare le vostre esperienze, aspettando il mondiale di novembre a Levanto. Noi invece ci fermiamo qui, scendiamo da surf, ci fermiamo qui, torniamo domani dalle 2 alle 3. Franco Piantanida in redazione, Mauro De Angeli in regia. Ciao a tutti.